America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Do your ears sort of wiggle? Does your hair make you giggle? Does your neck curl long? Do your hips sing a song? Do your ears hang low? Dove and Walmart find real beauty. Vi ho fatto ascoltare una delle pubblicità più conosciute in America, una pubblicità di Walmart, la catena di grandi magazzini, la più importante catena di grandi magazzini, direi, del mondo. Pensate che vende ogni anno per 421 miliardi di dollari, ha un fatturato di 421 miliardi di dollari, 2 milioni di dipendenti e 9.000 negozi sparsi in tutta America. La Walmart è stata fondata da Sam Walton, che l'ha trasformata in quello che poi è diventato un colosso della grande distribuzione. Le figlie che hanno ereditato sono fra le donne più ricche d'America. Dunque è una delle catene, uno dei marchi più conosciuti d'America, conosciuto anche per essere un gruppo difficile, molto severo nei confronti dei dipendenti. Ci sono state storie in passato piuttosto critiche. Cosa è successo? Che un gruppo di dipendenti, di donne che avevano lavorato da Walmart e che lavoravano da Walmart, si sono coalizzate e hanno fatto causa contro questa catena di grandi magazzini in rappresentanza di 1,5 milioni di donne che dicevano di essere state discriminate dal punto di vista del salario, dal punto di vista del trattamento, dal punto di vista della promozione. Quindi era una causa per discriminazione. La Corte Suprema ha respinto questa istanza, l'ha respinta all'unanimità. Fatto questo molto nuovo per l'America, perché la Corte Suprema è l'ultima corte d'appello, ha 9 giudici. Questi giudici sono di nomina repubblicana e di nomina democratica. In questo momento c'è una maggioranza repubblicana e in genere votano sempre in modo spaccato, quindi c'è un po' di politicizzazione. Non in questo caso, ho trovato questo voto molto interessante proprio per questa ragione. Da noi una sentenza di questo genere sarebbe stata considerata probabilmente reazionaria, ma la forza della Corte Suprema in questo caso è proprio la forza dell'unanimità, quindi l'equità, se vogliamo, ha prevalso sul politically correct. Un altro caso che da noi avrebbe potuto essere considerato, ma chissà, forse reazionario, è stato il caso di due persone che hanno protestato, si sono comportate in modo, diciamo così, non civile durante la conferenza stampa, l'incontro stampa di Anthony Weiner. Ricorderete chi è Anthony Weiner? È quel congressman che mandava alcune foto, diciamo, delle sue parti intime su Twitter a delle ragazze. Ebbene, è stato costretto poi alle dimissioni, ma durante questa conferenza stampa ci sono state un po' di proteste, qualcuno ha inscenato un'agitazione, un fotografo si è messo davanti alla macchina di Weiner per non farlo andare a scattargli delle foto. Ebbene, che è successo? Che la polizia li ha arrestati, perché non si tollera che ci siano delle dimostrazioni di questo genere. Di nuovo, in Italia, da noi questo non sarebbe successo. A me è capitato di essere una dimostrazione proprio durante una presentazione di un mio libro in cui ci sono state delle persone che hanno inscenato una dimostrazione. Ebbene, hanno disturbato questa assemblea, però non solo non è successo nulla, ma sono emersi come i vincitori del messaggio politico. Ecco, dunque, noi siamo collegati con Daniela Roveda per discutere un po' di questi episodi. Daniela è la nostra corrispondente in California. Vorrei innanzitutto chiederle qualcosa su Walmart. Qual è stata la dinamica di questa causa? Qual è la storia dietro questa sentenza di oggi? Il caso risale a 10 anni fa. Nel 2001, 6 dipendenti di Walmart decisero di far causa e di chiedere al giudice di autorizzare la causa collettiva a nome di tutte le impiegate di Walmart considerate discriminate sia dal punto di vista della paga che della promozione. Un paio d'anni fa la Corte Suprema della California diede ragione alle dipendenti Walmart, ma Walmart fece appello alla Corte Suprema e il caso è stato deciso proprio ieri. Ecco, scusa Daniela, mi colpisce una cosa. Noi in genere pensiamo che in America le cause siano molto rapide, ma qui stiamo parlando di un iter processuale che è durato praticamente 10 anni. Come mai? Succede? In casi complessi come questo sarebbe stata la più grande causa collettiva della storia americana, con danni da pagare alle tutte le dipendenti Walmart passate e presenti nell'ordine di svariati miliardi di dollari. Non solo, avrebbe anche creato dei precedenti per tutte le altre società americane e sarebbero finite nel mirino delle dipendenti donne in caso di altre cause di discriminazione sessuale. Ecco, Daniela, c'è un elemento che emerge, lo accennavo prima mentre introducevo l'argomento, cioè in questo caso la Corte Suprema, che in genere è spaccata, ha votato all'unanimità a favore del datore di lavoro e contro il lavoratore. Noi in Italia siamo in genere, soprattutto in causa di altro profilo di questo genere, abituati al contrario. Raccontavo anche di un altro episodio che da noi sarebbe stato considerato reazionario, e cioè il fatto che a una dimostrazione durante le dimissioni di Wiener quelli che dimostravano sono finiti in manette. Ecco, è un fenomeno normale, vedendolo tu dalla California, che è poi lo stato più liberal d'America, questo che stiamo raccontando? Non è raro che i giudici prendano delle decisioni che non sono interamente consone alle tendenze politiche con cui il giudice viene identificato. In generale il sistema giudiziario americano è molto imparziale, e quest'ultima sentenza lo dimostra. Dopotutto i quattro giudici più liberal hanno espresso le loro preoccupazioni sulla discriminazione sul posto di lavoro contro le donne, non l'hanno negata, ma non hanno potuto esprimere una sentenza diversa perché il merito della causa non era accettabile. Ecco, e sul fatto che questi dimostranti sono stati semplicemente arrestati? E c'è un disturbo della quiete pubblica, non è assolutamente raro che ci siano interventi di questo tipo, tutti sono liberi di esprimere le proprie opinioni, di protestare in pubblico, però in modo civile e nel rispetto dell'ordine pubblico. Ecco, Daniela, vedendo questi due esempi mi viene in mente il primo emendamento. Secondo te questi interventi così severi nei confronti di disturbatori ci sono per proteggere proprio il primo emendamento? Il diritto di ogni cittadino di esprimere la propria opinione è sacro negli Stati Uniti, a patto che non disturbi o impedisca le proteste altrui. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il rapper 50 Cent ha deciso di prendersi una pausa dalla musica per scrivere un romanzo. Il libro, che uscirà a gennaio, si intitola Playground, una storia autobiografica che affronta il tema del bullismo. E dunque a 50 Cent dedichiamo Ok, You Are Right. When I say I'm ballin', I'm not talking about a ball. I'm talking about tipping Nico stones out the mall. Niggas, they can hate all they want, but they know they like this. Me, I'm like that painting on the wall, baby, I'm priceless. You can come and work me over, baby, on the night shift. Catch me on the night shift. See how freaky I am. Okay. When they talk about me, they say I be trippin'. Yeah. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.